This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Beh, buonasera a tutti, questo è This is not an exit. Avete appena sentito qualcosa che non è proprio comunissimo nelle nostre frequenze, qualcosa in brasiliano, ma intanto salutiamo tutti quanti, questa sera abbiamo ospiti. Buonasera dottor Scarpa, buonasera dottor Corrias, buonasera Nina e buonasera anche al dottor Simoniello. E buonasera dottor ingegner Babe, che ci vuole. Scusa, cioè con tutte queste cariche alla fine dobbiamo riconoscere. Ah, ma io sono ancora laureando, eh. Ah sì, È un povero geometra ancora. Un geometrino. Beh, comunque, dicevamo, abbiamo sentito qualcosa che io, per me, è nuovo. Per voi? Vabbè, sì. Nicola? Qualche richiamo ai Sepultura probabilmente c'è, o no? Qualche richiamo a Roots di Sepultura, ma sentiamo Nina che magari è stata un po' in Brasile e qualcosa da dire se la come... Ciao. Come li hai scoperti? Ma io come li ho scoperti? In realtà, ecco, ero in Brasile il primo mese, chiacchieravo in casa con un brasiliano, mio coinquilino, e parlavamo della musica brasiliana conosciuta in Italia, ovviamente i grandi nomi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eccetera. E lui mi fa, beh, sicuramente tu conoscerai Nassau Zumbi, chiaro, no? E io, beh, veramente... Chiarissimo. No, mai sentiti. E lui è rimasto sconvolto dal fatto che io non conoscessi Nassau Zumbi, perché in Brasile, per lui, ma per tutti i brasiliani, per la storia della musica brasiliana, sono un po' il proseguimento della rivoluzione del tropicalismo, insomma. E quindi da lì mi si è aperto un mondo, ho conosciuto Nassau Zumbi, è tutto il movimento che c'è dietro, che è il movimento di cui parliamo un po' oggi, del Mang Beat, e quindi così, insomma. Ed è un movimento che nasce casca a fagiolo con la nostra trasmissione, che ricordo inizia anni 90, quindi è una cosa che non è conosciuta e quindi ci fa piacere farla conoscere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. E poi sì, è anche indicativo di un periodo particolare per il Brasile, perché la dittatura, ne abbiamo già parlato al tempo di Sepultura, era finita da qualche anno, nell'85 ricordo, sì. Però qua inizio anni 90 l'economia in alcune parti del Brasile cominciava a portare un po' di benefici, ma non esattamente nel nord-est. Eh sì. E infatti no, questo movimento nasce proprio nel Pernambuco, tant'è che il nome Mang Beat, che è il nome di tutto questo movimento musicale che nasce appunto in questo periodo, richiama un po', hanno scelto questo nome perché richiama il terreno del Mangue, che è il terreno tipico delle zone vicino Recife, quindi tutte le zone del nord-est del Brasile, e loro hanno scelto questo nome Mang Beat perché volevano un po' giocare con una metafora, cioè fare un parallelo tra la ricchezza, diciamo, e la varietà dell'ecosistema Mangue di queste zone e tutta la ricchezza musicale che volevano creare a partire dal Pernambuco, perché di fondo è il Mang Beat e in Nassau Zumbi, i gruppi che ascolteremo provano un po' a mischiare tutta musica regionale tipica del Pernambuco, maracatu, frevo, embolada, con di tutto davvero, funk, elettronica, sound. Loro parlano appunto di ritmi, di strada, rumori, quindi questo è un po' il gioco di ricchezze che volevano creare parlando del terreno del Mangue, appunto. Sì, oggi in particolare ci focalizzeremo su Chico Shenz e Nassau Zumbi. Nassau Zumbi. Bravo, per fortuna abbiamo una quasi madrelingue, altrimenti con le nostre capacità saremo linguistiche spacciati. Saremmo spacciati. Rivers and bridges. Simons. E caso ponte Caxangá, é Brasilita, é Beberiba, é CDU, Capibaribe, é o Centrão, eu falei. E os putis e overdrives, impressionantes esculturas e lama. No mucambo tem mulambi, o mulambo já voou. Caiu lá no calçamento, vendo só do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. E os putis e overdrives, impressionantes esculturas de lama. Sette 96 25, siete su Radio Città del Capo. Questa è This Is Not an Exit. E per una volta abbandoniamo i nostri soliti litorani anglosassoni per passare alla costa sempre atlantica, ma un Atlantico molto più meridionale. Siamo in quel di Recife, quindi zona tropicale del Brasile, una zona poverissima, come si diceva Nina, però che sta producendo in questi inizi di anni 90 qualcosa di nuovo. Questi ritmi sono nuovi per me. Sì, come diceva Nina, si tratta d'altro di ritmi e di musiche, forse anche le meno conosciute della musica popolare brasiliana. Tutti conoscono il samba, ma tutta appunto la musica del nord-est che citava appunto Nina è anche meno conosciuta. Appunto il Mangue Beat si preoccupa anche di quello, cioè di partire da queste radici per farle conoscere, ovviamente mescolandole e intrecciandole a tutti gli elementi urbani, come appunto dicevamo prima. E io mi scuso della mia voce, ma sono tornato da poco da Recife, stavo pescando granchi e c'era un clima tropicale, quindi mi sono un po' raffreddato. Però dai, una voce bellissima. Esatto. Tra l'altro i granchi c'entrano, perché proprio granchi, sì. E questo perché, come insomma, il granchio è una figura simbolo di questo movimento del Mangue Beat, che pubblica proprio un manifesto nel 90, un movimento che non è solo musicale, è anche culturale, che anch'io ho scoperto da poco grazie a Nina, e ha coinvolto il cinema, la letteratura, il teatro. E il manifesto appunto si chiama, pubblicato nel 92, è Caranguejos con Cerebro, giusto la pronuncia? Sì, cioè, corretto dottore, corretto. Corretto, granchio con cervello. È un manifesto scritto da Fred 04, che è stato cantante e fondatore di uno dei gruppi simboli del Mangue Beat, che sono il Mundo Livre S.A. E proprio questo manifesto appunto elogia questa diversità a cui puntava il Mangue Beat come movimento, e l'agitazione contaminatrice, questa ansia di noti, questa voglia di far emergere il proprio ecosistema musicale, ma anche mescolarlo. E non so, poi se c'è da dire, esatto, c'è da dire anche che alla fine l'importanza di questo movimento è anche legata a un po' la critica politica forte che si porta dietro, perché come dicevamo la zona del nord-est del Pernambuco è tuttora la zona un po' più povera del Brasile, perché magari per spiegarlo dobbiamo fare molti passi indietro nella storia, perché facciamoli faccio brevemente in due parole, perché all'inizio della colonizzazione alla fine le zone sfruttate erano proprio queste, no? Zona di Alagoas, Pernambuco, Bahia, perché erano le zone dove c'erano le piantagioni di canna da zucchero e quindi tutta la tratta degli schiavi e il cuore economico era lì, era nello sfruttamento di questo territorio. E solo, tant'è che la capitale Brasile a Salvador per due secoli, solo dopo, nel 1700, metà 1700 si sposta a Rio, vengono scoperte le miniere nella zona del Minas Gerais, che è quella confinante con lo stato di Rio, e poi insomma la fine della schiavitù dell'Ottocento. Quindi in sostanza negli anni fino ad arrivare al Novecento, alle fazendas di caffè a San Paolo, appunto, tutto l'asse economico si sposta a centro-sud, a Rio, San Paolo e tutto il Minas Gerais. Quindi il nord-est è stato praticamente abbandonato dopo essere stato sfruttato fino all'osso attraverso la schiavitù. Quindi questo movimento un po' anche nasce da questo, cioè tornare a parlare di questa zona poverissima e abbandonata, che però si porta dietro tutta la storia, no, più afro-brasiliana, se vogliamo, del Brasile, ecco. Sì, perché ora mi sa che Recife sia anche abbastanza turistica, ma sì. 20-25 anni fa mi sa che fosse una delle zone più terribili da abitare. Esatto, la metà della popolazione in questi anni viveva nelle favelas, per dire, la metà della popolazione di Recife ed era tipo la quarta peggiore città al mondo nella quale vivere, quindi insomma... Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Os jardins da razão. E na praia é de se ver. A areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer. Que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrando a revolução. Vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras são jardins da razão. Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é praeira. Segura bem forte a mão. E é praeira. Vou lembrar. Chantis da razão. Antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Ma chi era Zumbi? Era un eroe nazionale praticamente, ma anche questa è una cosa abbastanza sconosciuta in Italia. Eh sì, questo è un po' un peccato, insomma. Ma infatti la Zumbi è un po' il simbolo della resistenza afro-brasiliana per eccellenza. In Brasile è un po' un eroe, chiamiamolo così. E non è un caso che loro hanno scelto il nome Zumbi, perché era a che fare sempre col territorio, perché era un po' il leader di questo quilombo dos Palmares, che si trovava proprio nella zona di confine tra l'Alagoas e il Pernambuco, quindi di nella stessa zona dove nasce appunto il movimento. Ah, ma noi siamo ignoranti, non sappiamo neanche cos'è un quilombos. Perché torniamo da, quindi facciamo 4-5 passi indietro e parliamo di Zumbi, appunto, che è questa figura fondamentale della lotta di emancipazione degli afro-brasiliani, perché era il quilombo dos Palmares di cui parlavo prima. È uno dei più grandi quilombos della storia coloniale, appunto. Che cosa sono? I quilombos erano comunità formate da schiavi africani che riuscivano a fuggire dalle piantagioni, in sostanza. E quella del quilombo dos Palmares è uno dei più grandi anche che ci sia stato nella storia brasiliana. E che succede? Zumbi nasce, siamo a metà del 1655, e nasce libero, però viene catturato e consegnato ad un missionario portoghese quando aveva solo 6 anni, e quindi lui è cresciuto, ha ricevuto i sacramenti, ha imparato il latino, il portoghese, è cresciuto con educazione anche cattolica portoghese, solo che a 20 anni finalmente riesce a fuggire e torna nel quilombo dos Palmares, appunto. E qui in questo quilombo si riesce ad assumerne un po' la lideranza, mettiamola così, della comunità del quilombos, e riesce a sostituirsi a quello invece al leader, l'attuale leader di questo quilombos, che stava in un certo senso accordandosi con il governatore della capitania del Pernambuco all'epoca, portoghese appunto, quindi colonizzatore. E Zumbi era assolutamente contrario ad accettare questa offerta che viene fatta al quilombos, cioè vi diamo la libertà a tutti questi schiavi fuggiti purché voi vi sottomettiate un po' all'autorità della corona portoghese. Lui non ha accettato questo ricatto, perché non accettava l'idea che in Brasile ci fossero altri schiavi africani ancora sottomessi ai portoghesi, e quindi si mette un po' a capo di questo quilombos e conduce una resistenza che dura praticamente fino al 64, quando questo quilombos viene praticamente distrutto. Lui viene ferito, riesce a fuggire, poi catturato di nuovo, alla fine verrà ucciso, e purtroppo la fine tragica è quella un po' che è anche legata un po' a tutta la sua storia, ovvero che la sua testa è stata esposta nella piazza, più che nel punto più alto della città, per mostrare come si usava fare allora, per intimorire. Soprattutto il governatore dell'epoca disse anche: così togliamo questa superstizione che Zumbi è immortale, sono gli africani che hanno queste superstizioni. Insomma, quindi Zumbi era una figura fondamentale e di questo territorio. Anche quindi loro, la scelta del nome della band, voleva portarsi dietro questa eredità molto forte, insomma. Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra... da disorganizzar, posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um chié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate de cenoura. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Oggi i Mange Boys e le Mange Girl sono individui interessati all'hip hop. Collasso della modernità, caos, attacchi di predatori marittimi, principalmente squali, moda, Jackson do Pandeiro, Josué De Castro, radio, sesso non virtuale, sabotaggio, musica di strada, conflitti etnici, media idiozia, Malcolm McLaren in Simpson, tutti gli avanzi di chimica applicati al terreno delle alterazioni ed espansioni di coscienza. Bastarono pochi anni per far sì che i produttori di Fabbrica Mangue invadessero Recife e cominciassero ad espandersi su tutti i lati del mondo. La scarica iniziale di energia ha generato una scena musicale con più di 100 gruppi musicali. Nel suo sentiero sono sorti programmi di radio, sfilate di moda, video, clips, film, molto di più. poco a poco le arterie si stanno sbloccando e le sangue e il sangue torna a circolare per le vene di Mongetown. Questo e ormai era... siamo in diretta anche noi in una radio, una piccola trasmissione. Sono le 16.30 e questo era? Questo è, sì, era appunto un estratto dal manifesto del movimento del Mangue Beat di cui si parlava prima. E si cita alla fine Mangue Town, appunto questa città del Mangue, che era uno dei concetti basilari del manifesto. Il manifesto è appunto diviso in tre parti: il concetto di Mangue, che ha spiegato prima Nina, Mangue Town, la città come luogo geografico e culturale, e Mangue, la scena. È un manifesto che appunto si sofferma sull'ecosistema del Mangue, quindi la geografia del nord-est, e la critica della crescita distruttiva connessa appunto allo sfruttamento e poi allo sfruttamento che c'era stato nel nord-est. È un testo quindi anche di denuncia delle condizioni sociali della popolazione, con l'obiettivo di riscattare queste tradizioni culturali del nord-est che, come dicevamo prima, sono state dimenticate. E qui ritorna il granchio di cui parlavamo prima, no? Cioè uno delle ispirazioni del manifesto è stato appunto questo romanzo verità di Josué de Castro, Uomini e Granchi. Che Josué de Castro era un sociologo e geografo del Pernambuco, che era vissuto nel nord-est brasiliano e si dedicò a combattere appunto la fame, è stato presidente della FAO. Sono state le sue opere essere fondamentali per questa metafora dell'uomo granchio, del granchio con cervello di cui si parlava prima. Gli uomini granchio sono, cioè, gli uomini e le donne che vivono ai margini della città di Recife, e la loro vita appunto è paragonata a quella di granchi. Granchi appunto col cervello, è uno degli animali tipici della zona. E questo manifesto affronta appunto questioni che non sono solo culturali ma anche geografiche e storiche. Questo perché Recife, che insomma è stata investita da una sclerosi economica già all'inizio degli anni 70, con una stagnazione economica, con un mito di una metropoli, appunto la metropoli nord-est, che in realtà insomma non ha fatto altro che aggravare e accelerare la miseria e il caos urbano che caratterizzava Recife. E nell'ultima parte del manifesto, dove appunto si parla di Mangue Boys e Mangue Girl, si celebra l'avvento di un circuito energetico che possa connettere le buone vibrazioni del Mangue con la rete mondiale di circolazione di concetti pop, che è simboleggiato appunto da un'antenna parabolica infilata nella lama del Mangue. Quindi appunto questo rapporto tra le radici locali e l'apertura al mondo di cui si parlava all'inizio. Quarta pior cidade do mundo. modernizzare il passato e un'evoluzione musicale, dove sono finite le note che erano qui. Non ne ho bisogno, basta lasciare tutto suonare bene nelle orecchie. La paura dà origine al male. L'uomo collettivo sente la necessità di lottare. L'orgoglio, l'arroganza, la gloria riempiono l'immaginazione di dominio. Sono demoni quelli che distruggono la potenza dell'umanità. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antonio Conseiro, tutte le pantere nere, Lampiao, la sua immagine e somiglianza. Io ho certezza che anche loro cantarono un giorno. E questo è il monologo di apertura del primo CD di Nassau Zumbi del Risposta esatta 1994. Wow, grazie. E quindi con questo monologo molto bello si apre il primo CD del 94. In realtà loro hanno fatto insieme a Chico Science solo due CD, uno del 94 e uno del 97, perché Chico muore molto giovane con un incidente stradale nel 97, pochi giorni prima del carnevale di Recife. E poi la band ha continuato ancora oggi, insomma, fino agli ultimi album, se non sbaglio 2007-2008, quindi col nome di Nassau Zumbi, perché inizialmente il nome della band era appunto Chico Science e Nassau Zumbi. E questo è il monologo di apertura, un monologo molto bello che come dicevamo prima evoca questa figura di Zumbi, e insieme a molte altre figure di lotta e resistenza, alcune conosciute, altre meno conosciute, perché sono tutte figure legate al nord-est. Ad esempio lui parla di Antonio Consigliero, che era un po' a capo di questa comunità dei Canudus, che è stata completamente sterminata nella Baia di fine 800. Parla di Lampiao, che era una sorta di Robin Hood del nord-est, cioè era un bandito rurale del nord-est che lottava insieme al movimento dei Cangasseros contro lo strapotere dei grandi proprietari terrieri del nord-est. Quindi l'idea che il monologo iniziale del primo CD si apra evocando tutte queste figure comunque di lotta e di resistenza legate al territorio del Pernambuco era una scelta molto forte, insomma. E la prima canzone, che poi magari ci sentiamo, che è molto bella, si chiama Banditismo per una questione di classe. È un po' è il primo pezzo effettivo del CD, che è un coraggiosissimo pezzo di denuncia delle operazioni della polizia nelle favelas. Cose che avvengono solo negli anni 90, giusto? Ecco, solo negli anni 90, cose di cui non si parla assolutamente più. Arrivo. Adesso non succede più niente. È tutto tranquillo? Ma come no? Tra un po' partono anche per i mondiali. Sono tutti festeggiando, sì, sì. Io ho convinto il carnevale durasse tutto un anno. Ma è vero, sì, esatto, sì, in effetti. Ma sì, o Brasile sempre il carnevale, giusto? Brasile e carnevale. No, non mi ricordate Edmundo alla Fiorentina che se ne scappava a febbraio e non tornava? Esatto. A Saudage. Saudage. È la faccia, è una sfilata ai luoghi comuni, ma mi sa che non sarà così. Poi magari ne accenniamo. Poi ne parliamo. Se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Galeguinho do coque, não tinha medo da perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo com seu alicate. Sobe morro, ladeira, correga, vendo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem de ele bala. Em cada morro, uma história diferente. Se mata gente inocente. E quem era inocente hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de ponto do fudido. fazia sexo, cruzou a liga dele. Galera, tudo pra quê? Não tinha medo da perna cabeluda. E do olho verde, fazia sexo, cruzou a liga dele. Sobe morro, ladeira, correga, bebo favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão, quando o bando de macaco perseguia Lampião. O que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem, dinheiro e bala. Tempo fa si parlava di banditi, tempo fa si parlava di soluzione, tempo fa si parlava di progresso. Tempo fa io vedevo la televisione, chi era innocente oggi è diventato bandito, per poter mangiare un pezzo di pane già marcito. Banditismo per pura malvagità, banditismo per necessità, banditismo per una questione di classe. Una questione di classe, sì, anche i mondiali sono una questione di classe. Beh, non penso che tutti possano permettersi biglietti per andare allo stadio neanche in questo 2014, giusto? Ah, no? Per tornare. No. Costicchieranno. Penso anch'io. E poi qualcun altro protestava perché magari hanno scaricato un po' di costi sui trasporti urbani, insomma, niente di nuovo. Dagli anni, dai fine 80, inizio 90, 2014, magari la situazione generale è un po' migliorata. O no, Nina, non lo sappiamo. Ma certo, da qui siamo distanti. È un po' migliorata chiaramente la situazione, questo non si può negare, però il motivo per cui insomma tutti i brasiliani stanno scendendo in piazza in questi giorni, poi alcune cose per fortuna le leggiamo, le abbiamo lette in questi mesi, è legato anche alla situazione insomma attuale, che è tutt'altro che rosea in Brasile, perché chiaramente insomma di disuguaglianze sociali ne abbiamo parlato, insomma ne sentiamo parlare da un po' in Brasile, solo che ovviamente sono molto arrabbiati perché in Brasile stanno per questi mondiali, hanno ristrutturato, costruito tipo 12 stadi nuovi e spendendo ovviamente moltissimi soldi. E io ricordo che Lula è stato, insomma il passaggio Lula-Dilma è avvenuto nel 2011 e prima di Dilma Lula aveva promesso che quando già si sapeva che il Brasile avrebbe ospitato i mondiali, che i fondi pubblici non sarebbero stati toccati per finanziare i mondiali, che i mondiali sarebbero state, tutte le opere per i mondiali sarebbero state finanziate con fondi privati, insomma, e invece oggi sappiamo che la maggior parte del denaro pubblico sta andando ovviamente a finanziare queste grandi opere, però delle quali la popolazione non può beneficiare, anzi al contrario sono iniziate una serie di sconvolgimenti della vita delle popolazioni, della popolazione brasiliana, come appunto la militarizzazione delle favelas, di cui che in realtà sì, ne sentivo parlare come pacificazione di favelas, questo è il progetto, c'è un nucleo di polizia che si occupa della pacificazione di favelas che si chiama UPP, Unità di Polizia Pacificatrice, quindi è questa idea di portare la pace insomma, che di fondo poi significa invece militarizzare delle zone e quindi con tutte le... Poi Amnesty International ad esempio l'anno scorso aveva aperto un'inchiesta sugli abusi, le violenze, anche le varie operazioni di polizia dentro le favelas e che cosa comportavano per la popolazione, per cui insomma la situazione è molto tesa. E poi anche le proteste di questi giorni sono legate al fatto che quei brasiliani parlano continuamente di sanità e distruzione, vogliamo denaro per sanità e distruzione, perché ovviamente sono due aspetti insomma che pesano molto nella storia del Brasile, tant'è vero che diciamo l'istruzione è ad un livello molto molto basso, insomma la situazione è disastrosa, istruzione pubblica di base appunto, scuola elementari, scuole medie, scuole superiori, tant'è che in questi giorni proprio a Rio ci sono moltissime proteste degli insegnanti perché hanno salari molto bassi, spesso non ci sono insegnanti. Io ricordo anche di ragazzini che raccontavano: sono andata a scuola oggi, non c'erano i professori, siamo rimasti lì, abbiamo giocato ore, o cose che si ripetono così, per cui l'accesso poi all'istruzione invece universitaria è un'altra nota dolente, insomma, perché chi ha fatto fondamentalmente le scuole, ad esempio, fino alle scuole superiori pubbliche, le scuole superiori pubbliche non sono assolutamente buone, per cui chi può permettersi scuole private va alle scuole private, chi non può permettersele ovviamente ricorre all'insegnamento pubblico, solo che all'università la situazione si ribalta, ad esempio le università pubbliche sono eccellenti, però hanno dei test di ingresso molto molto duri, molto difficili, e riesce ad accedere solo chi aveva avuto una formazione privata, per cui di fondo sono anche ad esempio l'università è assolutamente d'élite, per cui insomma tanti aspetti sia dell'istruzione che della sanità sono... Permettimi un'intrusione, così insomma ascoltando insomma questa fotografia che ci fai, sembra che sia alla base di tutto questa idea di fondamentalmente dividere in ogni modo possibile e immaginabile su più fronti e su più livelli, o mi sbaglio? Sì. No, esatto, esattamente questo, perché di fondo quando parlo di disuguaglianza è la parola che mi viene in mente, no, quando penso al Brasile prima di tutto, il fatto che ci sono proprio delle separazioni all'interno della società che attraversano sia appunto la classe, appunto banditismo per una questione di classe non è un caso, insomma, perché ovviamente chi può permettersi l'università, chi può permettersi ad esempio un plano Saúde, chiamano appunto, no, per della sanità, chi può permettere, ovviamente la società brasiliana è completamente divisa, separata, no, ed è una cosa, io ho un'immagine che racconto sempre del mio anno in Brasile, della mia esperienza in Brasile, che era questo muro in una piazza diciamo centrale del Brasile, c'era un muro, c'era l'università pubblica come vi dicevo, e c'era questo cancello dell'università, ora dentro l'università principalmente persone bianche che potevano permettersi quella formazione lì, fuori dall'università il caso voluto che c'era una grande piazza piena di nella quale dormivano spesso moradores di rua senza tetto, quasi tutti neri per esempio, bambini molto piccoli, quindi non solo segregazione, diciamo differenze appunto di classe, ma anche differenze che si portano dietro la storia ad esempio brasiliana, la storia coloniale, per cui ecco il Brasile è il primo paese che uccide più ragazzi neri dai 15 ai 25 anni, quindi non è insomma e qui si parla di violenze della polizia, chissà cosa ne pensa il vecchio ministro della cultura Gilberto Gil. Che tra l'altro ha collaborato con Chico Science, ha collaborato, no? hanno cantato insieme, hanno fatto un gran concerto insieme. D'altronde anche Lula, ex sindacalista, probabilmente in questi anni 90, inizio anni 90, era ancora un dirigente sindacale o semplicemente sindacalista, poi è stato eletto anche con grandi speranze, poi avrà in qualche modo dovuto mediare, o comunque non è bastata. cascos, caos, cascos, caos. Imprevisibilidade de comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo. Música quântica. Siete sempre in diretta su This Is Not An Exit, sono le 16:56 minuti primi ormai, la puntata volge al termine, una puntata sul Mangue Beat, dico bene? Mangue, mangue, come si pronuncia? Mangue Beat. Ok. È troppo complicato. È troppo nuovo. Inventiamo, cambiamo la pronuncia, cambiamo tutto. Insomma, una musica di protesta e comunque di grosso impegno civile. E veniamo anche da una manifestazione, quella del Jumbo, dove ieri sera hanno performato dei pesi massimi dell'hip hop e anche di quello tosto e impegnato. Cioè, sto parlando di Public Enemy. Ci siete andati, ma non è possibile, ma veramente. E invece sì, tra l'altro sono sempre in forma, siamo, nonostante le 50 primavere. Ma dovete trovare dei vecchi amici. Bellissimo. Ci hanno traviato la adolescenza, no? Ah, no, molto bravi. Molto bravi. Il bello è che ai loro concerti sei sempre a che ora è in tempo reale. Perché insomma. perché Flower of Flav ha ancora il suo orologio al collo, niente da fare. Col fuso orario di New York, però. Sì, col fuso orario sbagliato. Comunque, per chi volesse questa sera, c'è ancora Jumbo con Naughty by Nature. Domani sera addirittura assalti frontali. Insomma, è qui la fiera. perché no? Per quanto ci riguarda, ci salutiamo, ringraziamo i nostri ospiti, Nina e il dottor Simoniello. A risentirci sabato prossimo, sempre alle 16. E grazie a tutti, grazie sì, dottor Corrias, grazie dottor Scarpa. E a sabato grazie prossimo. In primis, sì. Ciao. A sabato prossimo. Ciao. Ciao. Ciao. Pump up the volume. Pump up the volume.